Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e benvenuti, sono le 11.05, finalmente è arrivato il nostro momento. Adesso andiamo a sentire i titoli del nostro sommario, ma prima ringrazio Giorgio Mattè che è in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Regalati più benessere, te lo meriti. Teleton, la ricerca ha bisogno del sostegno di tutti. Musica sotto l'albero. Dai, ci siamo, Natale alle porte con il suo carico di regali, tanti o pochi che faremo, riceveremo, e come ogni anno, anche se uno dice quest'anno ne faccio di meno, quest'anno pure ci penso prima, uno dei problemi fondamentali è trovare il dono giusto, originale e adatto alla persona. Allora, noi abbiamo pensato di darvi una mano suggerendovi qualcosa probabilmente originale, non lo so, questo ce lo diremo voi, ma certamente salutare, invece ad esempio del classico maglione con le all'amico un po' forte di pancia potremmo regalare una cyclette, oppure così all'amica sempre in crisi col tono delle gambe, poi nessuno riesce mai a convincerla che le sue gambe sono perfette, potremmo far trovare sotto l'albero, che so, un abbonamento mensile in palestra. Ma devo dire che dopo questi due esempi sto raspando un po' il barile, la mia fantasia si sta esaurendo, e quindi passo la parola al nostro amico del venerdì, il dottor Franco Confalonieri, che qui è in versione babbo natalesca. Dottor Confalonieri, ma cosa mi combina? Beh, innanzitutto, visto il mio leggero sovrappeso, mi trovo perfettamente a mio agio nei panni di Babbo Natale, quindi oggi mi trovo particolarmente tranquillo. E sì, e quindi accennato... a lei potrei regalare il maglione con le renne. Esatto, sarebbe perfetto, esatto. Le renne tutte sulla pancia. Esatto, e nel senso che ha accennato a due regali classici, quali possono essere appunto la cyclette piuttosto che l'abbonamento in palestra, ma nell'ambito dell'esercizio fisico e del benessere in genere le possibilità sono mille, dal trattamento termale alla pedana vibrante, dal corso di Pilates alle scarpe particolarmente adatte per correre piuttosto che per fare dello step, dagli attrezzi a prevalente utilizzo casalingo agli attrezzi che potremmo utilizzare outdoor, per esempio per le passeggiate in montagna. Insomma, ci sono moltissime possibilità di regalare benessere e tutto sommato credo un regalo intelligente, particolarmente adatto a questi tempi, perché è un regalo che rappresenta un investimento, certo, in salute. Quindi oggi vi invitiamo a chiamarci 824 0024 o a scriverci al 349-238-6666. In particolare vorremmo capire se siete più favorevoli a regalare un oggetto legato al benessere che ciascuno poi potrà utilizzare individualmente a casa propria, oppure propendete per un abbonamento, un corso ad un centro sportivo, o siete assolutamente contrari a questo genere di regalo e soprattutto non vorreste mai riceverlo. Aspettiamo le vostre chiamate. Dottor Confalonieri, vuole aggiungere un altro spunto? Sì, vorremmo davvero capire come si schierano i nostri ascoltatori, qual è il partito vincente, se ritenete che uno debba occuparsi del suo benessere a casa da solo o affidarsi a degli esperti presso un centro, o ancora potrebbe esserci un terzo partito, a parte il partito di coloro che proprio non vorrebbero questi regali, il partito di coloro che vorrebbero invece un regalo più legato all'estetica, che so, un ciclo di massaggi, un ciclo di lampade per migliorare la propria abbronzatura, piuttosto che un ciclo di trattamenti termali, oppure dei prodotti finalizzati alla bellezza e alla salute del corpo. Potrebbe anche esserci questo partito, potrebbe prevalere. Insomma, aspettiamo le vostre telefonate, aspettiamo i vostri messaggi per vedere come sono rappresentate queste tendenze fra i nostri ascoltatori. Sì, dottor Confalonieri, però lei ci guiderà, ci darà consigli, per esatto. Cui se volete farvi aiutare nella scelta del regalo più adatto, dallo step al corso di Pilates al ciclo di benessere, chiamateci, perché il nostro Babbo Natale oggi, posso dirle così, ci darà consigli per non sbagliare e soprattutto non buttare soldi. 824 0024, intervenite oppure scrivete al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso tocca a noi, è arrivato il momento di fare la nostra parte, sostenere la ricerca. Parte la Maratona Teleton, un appuntamento che dà a tutti noi l'opportunità di sentirci un po' parte di una squadra, con la soddisfazione di contribuire, grazie anche alla nostra donazione, a portare avanti dei progetti già avviati e di dare il via anche a quelli, ai blocchi di partenza. La ricerca scientifica, per andare avanti, lo sappiamo, ha bisogno del sostegno di tutti. Anche del nostro personale. Su alcune malattie la ricerca Teleton sta facendo grandi passi in avanti. Noi diamo sempre un aggiornamento nel corso del nostro GR della Salute dei progressi di Teleton e della ricerca, ma la ricerca, sappiamo, procede a scalini, a gradini. Non sempre il passaggio dall'uno all'altro è semplice, a volte si torna indietro, ci si deve arrestare, soprattutto l'ultimo gradino, quello verso la cura, è più difficile e costoso. Quindi non dobbiamo sentirci lontani, ma dobbiamo sentirci chiamati proprio in causa e dare il nostro contributo. Per suggerirci una ragione in più per farlo, abbiamo in linea con noi il professor Luigi Naldini, che è direttore dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Professore, io sono molto contenta di averla in linea. Grazie. Perché lei ci aiuterà a capire qualcosa di più, a darci quindi un motivo in più o più motivi per aiutare la ricerca. La Fondazione Teleton è nata allo scopo di sostenere la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare, poi ha esteso il suo programma di ricerca a tutte le malattie genetiche. Le malattie genetiche, sappiamo, sono tante, diverse tra loro, a volte sono malattie rare, ma oggi c'è a disposizione una terapia, la terapia genica. Professore, ci spiega un po' come funziona e soprattutto quali risultati ha raggiunto? Come funziona? Dunque, la terapia genica è un po' l'ultima nata nella medicina molecolare e nasce proprio dalla comprensione di cosa c'è alla base della malattia genetica. Sì. A fronte della devastazione spesso della malattia genetica, dei tanti sintomi terribili di alcune di queste malattie rare, c'è la comprensione che la ricerca ha permesso che alla base di tutto questo c'è un semplice, talvolta un unico errore in una delle parole del codice genetico. Basti pensare, a volte, una singola lettera di una parola nel grande libro del DNA. E allora, a fronte di questa semplicità e poi purtroppo del suo terribile impatto sulla persona, la terapia genica cerca di sostituire la parola sbagliata con una parola corretta, inserendo quindi nel libro del DNA delle nostre cellule le informazioni genetiche giuste. E per fare questo, che è difficile ovviamente da fare, sfruttano dei virus che si sono evoluti in natura proprio per trasferire informazioni genetiche. I virus sono dei parassiti che ovviamente instaurano malattie, ma in laboratorio si è imparato a domesticare un po' questi virus, a modificarli con l'ingegneria genetica e a far sì che trasferiscano invece le informazioni terapeutiche e quindi restituiscono alla cellula la funzione che mancava. Professore, sono stati raggiunti dei successi, sono stati fatti dei passi avanti, la terapia genica ha ottenuto dei risultati importanti per alcune malattie. Sono spesso malattie rare di cui noi sentiamo poco parlare, ma sappiamo sulle quali è importante investire, perché la ricerca anche su malattie rare permette a voi ricercatori di capire alcuni meccanismi che possono in qualche modo essere poi utili per la comprensione di altre malattie, magari con grandi numeri. Certamente, infatti la terapia genica, come dicevo, è una giovane forma di medicina. Oggi ha pochi studi arrivati all'ultimo gradino, come diceva lei prima, però alcuni di questi hanno avuto veramente un grande successo. Ci sono dei bambini affetti da una grave forma di immunodeficienza, ovvero bambini nati sostanzialmente senza un sistema immunitario funzionale, per cui esposti a qualunque infezione, non potrebbero avere una vita normale in comunità. Questi bimbi oggi con la terapia genica vanno a scuola, alcuni ormai trattati da 4-5 anni, e sono praticamente assimilabili a quelli normali. Questo è un risultato ottenuto su una malattia rara, su 12 bambini a tutt'oggi, ma come lei diceva bene, questo risultato in realtà vale come prova di principio di questa nuova forma di medicina. Noi stiamo cercando oggi di replicare, con le giuste ovviamente adeguamenti, questo approccio ad altre malattie, e qui ci sarà probabilmente, speriamo, l'impatto di questo risultato. Professor Naldini, io penso che il suo intervento qui abbia sicuramente dato qualche motivo in più per i nostri ascoltatori per aderire, quindi per aderire all'invito di Teleton e donare, ma come ricercatore e poi come uomo ci può fare un appello, puoi fare un appello a noi e ai nostri ascoltatori a sentirsi un po' parte di questa squadra, perché ricordiamo che le malattie genetiche possono, un bambino affetto da una malattia genetica può nascere anche da una coppia di genitori sani, quindi non è un discorso che ci deve far sentire, no, diversi, perché in qualche modo potrebbe capitare anche nella nostra famiglia, professore. Certo. La malattia genetica è presente comunque, spesso e quasi sempre compare la malattia genetica perché i genitori sono portatori sani e non lo sanno, e lo sforzo che in fondo tutti stiamo facendo, io credo che questo è uno degli esempi più belli in cui la ricerca parla alla società, noi, e forse le persone vedono anche quella che è la faccia secondo me vera della ricerca. Si parla poco di ricerca in Italia, talvolta anche male. La ricerca in fondo è lo sforzo di molti giovani, spesso precari, spesso in difficoltà, che però hanno un pochino il sogno e l'ambizione di capire di più e di fare qualcosa. Teleton ha fatto moltissimo per questo, ha creato in Italia delle isole di eccellenza nella ricerca, a fronte di tante difficoltà che ben sappiamo. È una preziosa risorsa quella che ha creato con il coinvolgimento di tutti. A me piace molto parlare di ricerca anche così per pochi minuti per dare un messaggio credo positivo. Guardate noi ricercatori come uomini, come padri, come madri che condividono l'ambizione di fare qualcosa di fronte alla salute umana, e la ricerca ci dà uno strumento. Professor Naldini, qua in studio con me ho il dottor Confalonieri, il nostro ospite fisso del venerdì, che mi ha fatto un cenno perché evidentemente vuole intervenire. Sì, dottor volevo Confalonieri, aggiungere qualcosa. Noi ci occupiamo sempre di benessere e raramente ci occupiamo del benessere per quanto relativo delle persone e soprattutto dei bambini affetti da questo tipo di patologie. Lavorando io settimanalmente in piscina, a diretto contatto con questi bambini, con queste patologie e soprattutto con le loro famiglie, che spesso portano storie ed esperienze drammatiche ma straordinarie, mi sento proprio di associarmi come persona regolarmente impegnata con queste persone che hanno, vivono sulla loro pelle, nella loro vita quotidiana, queste terrificanti malattie, davvero associarmi all'appello, perché in Italia è soprattutto grazie a Teleton e a questo tipo di iniziative che si riesce a fare della ricerca e tutto sommato della ricerca vincente. Professor Naldini, grazie per essere stato con noi, grazie per il suo lavoro, per l'impegno e per anche il coraggio e la fiducia che con il suo lavoro e di tutti i ricercatori continuate a trasmetterci. Professore, grazie. Grazie a lei e a tutti quelli che ci vorranno aiutare, grazie mille. Grazie, io vi ricordo che oltre alla tradizionale maratona sulle reti RAI che terminerà il 14 dicembre, quest'anno Teleton lancia un evento live sul web con una maratona online di 2 giorni dalle 14 di oggi fino alla notte del 13 dicembre, è visibile sul nuovo social network UTeleton, quindi www.uteleton.it. Pronto soccorso. E allora, tra i nostri regali, appunto, facciamo un regalo importante, doniamo, facciamo una donazione per Teleton e comunque poi pensiamo anche, ritorniamo al tema del giorno in cui parliamo di regali di altro genere, di regali anche un pochino più frivoli, sì. Parliamo del nostro benessere, di regali che ci aiutano a stare bene o meglio. Arrivano tanti messaggi già, ad esempio Max ci scrive: alla mia compagna ho regalato per l'anniversario il cardiofrequenzimetro e a Natale completo con le scarpe da running. Bravo. Perfetto. Ha fatto 2 regali correlati uno con l'altro: il cardiofrequenzimetro che consente di correre piuttosto che di camminare, perché non è necessario correre per allenare il sistema cardiovascolare, all'intensità più adatta a ciascuno in funzione dei propri obiettivi, il miglioramento dell'efficienza cardiaca piuttosto che il dimagramento, piuttosto che il benessere in generale, ed un paio di scarpe ad hoc che consentono di non trasformare un esercizio fisico potenzialmente positivo come il cammino o la corsa in qualcosa qualcosa di negativo, cioè un qualcosa che determini poi dei problemi a livello delle caviglie, delle ginocchia, piuttosto che della schiena. Ecco, quindi due regali intelligenti e condivisi all'interno della coppia. Federico ci chiede se per la moglie, lui scrive, ingrassata e impigrita, non lo so, sia meglio regalare un mese di palestra, un ciclo di massaggio o un centro benessere. Dottor Confalonieri, lei che cosa farebbe? Beh, questa è una domanda abbastanza complessa. Secondo me, per il buon umore immediato della moglie, sarebbe meglio un ciclo di massaggio al centro benessere. Infatti, anche io avrei risposto così. Perché sicuramente si sente più coccolata, si sente più gratificata, si rilassa maggiormente e vi sono indubbiamente degli effetti a breve termine importanti legati, soprattutto se il massaggio è fatto in modo valido, a una riattivazione del microcircolo periferico e quindi a un miglioramento di tutta la funzionalità della pelle e dei tessuti sottostanti la pelle. Invece, a medio-lungo termine, rischiando magari che la moglie, nonostante l'impigrimento, questo regalo ce lo butti addosso in modo anche relativamente violento, però a medio-lungo termine probabilmente è meglio un mese di palestra. Questo per due motivi. Innanzitutto perché gli effetti sono più stabili, nel senso che riprendendo l'attività, certo, si ottiene un dimagramento più stabile, una ritonificazione più stabile e quindi il benessere è maggiore. E soprattutto perché l'attività fisica libera poi tutta una serie di sostanze a livello del sistema neuroendocrino che migliorano anche qui in modo stabile il tono dell'umore. Quindi se vogliamo raggiungere il risultato subito, 5 massaggi. Se vogliamo rischiare e rendere felice la nostra compagna, ecco, se vogliamo rischiare sull'immediato ma facciamo un investimento sul futuro, il mese di palestra. Andiamo a Milano, ci chiama Carmelo, 824 0024. Poi leggo altri messaggi, sono davvero tanti, stanno arrivando al 349 238 6666. Carmelo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. La sento. Niente, volevo... ecco. Mi sente? Sì. Sì, ecco, volevo chiedere al dottor Confalonieri, volevo regalare a mia moglie la pedana vibrante, però considerando che mia moglie soffre di periartrite e ha anche qualche ernia a livello cervicale, se questo poteva essere controindicato. Eventualmente, se non fosse così, che tipo di pedana dovrei prendere? Perché lei, Carmelo, mi sembra che sia proprio deciso, orientato sulla pedana, vero? Sì, perché ho di tutto e di più, quindi è l'unica cosa che mi manca a caso. Sì, ma scusi Carmelo, posso farle una domanda per risponderle meglio? Perché la pedana vibrante? Cioè, con quale obiettivo le regala la pedana vibrante? L'obiettivo è che vorrebbe perdere qualche chilo di troppo. Non ne ha molti, ne avrà 4 o 5. Però il problema è che ha sempre molto poco tempo, perché ovviamente lavora e il tempo è limitatissimo. Ovviamente, magari guardando la televisione, se questo poteva essere una soluzione. Allora, grazie Carmelo. Intanto lei stia senta la risposta, perché il dottor Confalonieri ci racconterà. Soprattutto iniziamo, che cosa sono queste pedane vibranti che stanno diventando una sorta di tormentone? Molti le usano, molti le vorrebbero acquistare, ci sono grandissimi messaggi pubblicitari. Da dove spuntano fuori? Ma come sono nate? Sono degli strumenti che ci sono ormai da un po' di anni, che fondamentalmente sono delle pedane che vibrano con intensità, modalità e caratteristiche delle vibrazioni diverse e programmabili dall'utente, e che si propongono di migliorare il tono muscolare, la vascolarizzazione in particolare degli arti inferiori, e quindi determinare un incremento della forza, un incremento del tono e del volume muscolare e in seconda battuta eventualmente anche una diminuzione del tessuto grasso e quindi un dimagramento. Queste sono a grandi linee le pedane. Ne esistono poi di vari tipi, con costi molto molto diversi, da quelle ad uso casalingo, che ovviamente consentono risultati o comunque hanno una possibilità di utilizzo dei programmi molto minore, da quelle più professionali che troviamo nei centri benessere. La regalerebbe o no? No. Non la regalerebbe, no. Non la regalerei in particolare alla moglie del nostro ascoltatore, per due motivi fondamentali. Il anche primo, se la paga il marito? Sì, anche se la paga il marito. Il primo, perché tutto sommato queste pedane vibranti, soprattutto se gestite in modo autonomo, determinano dei problemi collaterali a livello della colonna abbastanza significativi. Quindi in un soggetto come la signora, che presenta delle ernie per quanto localizzate in alto, oltre che una peritonite scapolomerale, potrebbero esserci un aggravamento della patologia preesistente, quindi va evitato l'utilizzo di questi strumenti. Sì. In secondo luogo perché obiettivamente sono relativamente efficaci rispetto all'obiettivo che si proponeva Carmelo, cioè non determinano di fatto un reale dimagramento. Però tutte le persone che le provano dicono che sono dimagrite. Qua almeno 7-8 messaggi a favore della pedana vibrante, per sottolineare appunto questo maggiore tono e perdita di peso. Sì, e diciamo che vi è un risultato, è un risultato abbastanza evidente sul breve periodo, però anche abbastanza limitato, perché poi non è che dia continuità nel tempo. Mi spiego meglio: se uno arriva a perdere magari 1, 2, 3 kg durante la prima fase, 3-4 settimane di utilizzo della pedana vibrante, non è che poi continui a perdere peso proporzionalmente man mano che l'utilizza. Sì. E soprattutto non è una perdita di peso direttamente correlata all'incremento del consumo calorico, che è la perdita di peso più sana che possiamo avere, perché una perdita di peso direttamente correlata all'incremento del consumo calorico intanto è stabile, intanto è continuativa nel tempo e poi si accompagna a un incremento dell'efficienza del sistema cardiovascolare e quindi ad un livello di salute maggiore in assoluto. Intanto accettiamo anche domande di ascoltatori che vogliono farsi un regalo per sé, magari per in qualche modo migliorare una condizione, una prestazione, quindi se dovete cambiare le scarpe per andare a correre piuttosto che un attrezzo che avete in casa e che vi sembra ormai superato, chiamateci perché sono validi anche i regali per sé, sì, quindi sì, non abbiate paura di sembrare poco altruisti. Raccontateci anche i regali che volete fare. Devo leggere dei messaggi sulle pedane, posso? Va bene. No, prima leggo un messaggio di Andrea, massaggiatore da Scandici, che ci scrive: ma che palestra, ma che scarpe, regalate massaggi. Andrea massaggiatore, auguri. Grazie Andrea, auguri anche a lei. Ho sentito perché per le pedane vibranti fanno anche male per alcuni aspetti, tipo insorgenze di ernia, ci scrive un ascoltatore. E Giordano invece ci scrive: le pedane sono pericolose per le donne in dolce attesa? Dunque, sconsiglio assolutamente la pedana vibrante per la donna in dolce attesa, questo in assoluto, perché chiaramente certo, ha degli effetti non controllabili. Non arrivo invece a dire che una pedana vibrante possa determinare delle ernie. È chiaro che se c'è una situazione di protrusione piuttosto che di ernia, la pedana può determinare un aggravamento del quadro clinico correlato a queste patologie, ma non di per sé determinare un'ernia. Giuseppe ci chiama da Milano, buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno. Senta, volevo chiedere all'esperto, io in pratica da quest'estate sono andato in vacanza camminando con l'infradito a piedi scalzi, sono tornato con dolore alla caviglia. Dolore che comunque non mi dà fastidio, però essendo che io vado a correre una volta a settimana per mancanza di tempo, facendo anche circa 20 km. Sì, Giuseppe, venga la domanda. Niente, volevo capire un attimino, questo dolore alla caviglia, da cosa è dovuto? Non lo so, dovuto magari alle scarpe. Magari, allora, Giuseppe vorrebbe forse che lei le regalasse una caviglia, due caviglie nuove, mi sembra che il dottor Confanonini... Posso magari solo un consiglio? Probabilmente camminare a lungo con le infradito ha determinato un sovraccarico abnorme a livello del tallone e quindi potrebbe aver determinato una tallonite che si è cronicizzata e che adesso dà dolore. Quindi bisogna fare una visita specialistica, valutare la scelta delle scarpe migliori, eventualmente di un supporto che scarichi in modo appropriato il tallone e la caviglia in modo da far sparire il dolore e lasciare che il nostro ascoltatore possa continuare a correre. Eccoci, siamo tornati insieme come ogni venerdì, parliamo di forma fisica, dottor Confalonieri, di benessere. Sì, di benessere. Questa oggi ci regaliamo benessere in vista del Natale. Sì, stiamo cercando, adesso non allarghiamoci troppo, stiamo cercando, dico cercando, di farci venire qualche idea per regalare o regalarci benessere. I nostri ascoltatori di idee ne hanno diverse, ad esempio ci scrive Antonio da Cavriglia: io vorrei regalarmi una bici in carbonio, lo dite voi a mia moglie. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde se volete parlare con noi delle vostre vostre idee, dei regali che pensate di fare, pensate di farvi, volete essere un po' guidati nella scelta. Ma prima di dare spazio alle vostre telefonate, ci colleghiamo col professor Luigi Frigerio, che è direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia all'Ospedale Maggiore di Bergamo, perché ha importanti novità da segnalarci riguardo al trattamento delle neoplasie ginecologiche. Professore, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Professore, si è appena conclusa a Roma il 20° congresso nazionale della Società Italiana di Oncologia Ginecologica. Ci sono buone notizie, arrivano soprattutto per il trattamento del tumore dell'ovaio, un tumore che è ancora molto diffuso e che rappresenta, lo ricordiamo, ancora la prima causa di morte oncologica per le donne. Sì, è vero, si tratta del tumore killer numero uno per la donna, il tumore dell'ovaio, e durante le fasi del congresso è emerso una primizia per quanto riguarda il consesso italiano relativo a uno studio internazionale cui hanno partecipato anche i colleghi italiani sulla chirurgia del tumore dell'ovaio. Il segreto per curare il tumore dell'ovaio è ottenere una buona citoriduzione, una chirurgia ottimale che asporti tutto il tumore presente nella pelvi e nell'addome. Questo è reso possibile e facilitato dall'esecuzione della chemioterapia neoadiuvante, ovvero questo studio prospettico randomizzato multicentrico presentato per la prima volta in Italia durante il congresso dimostra che è possibile citoridurre, cioè operare bene queste pazienti togliendo tutta la neoplasia con maggior facilità impiegando quello che è stato fatto già nella mammella, cioè la chemioterapia neoadiuvante, cioè prima di operare queste pazienti affette da un tumore così temibile, la possibilità di eseguire la chemioterapia che riduce le localizzazioni del tumore facilitando l'esecuzione di una chirurgia ottimale, facilitando l'asportazione completa del tumore, riducendo la morbosità e migliorando la qualità di vita delle pazienti. Questa è un po' la novità emersa durante le fasi del nostro convegno della Società Italiana di Oncologia Ginecologica. Professor Frigerio, io la ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buona giornata. Buona giornata anche a voi, grazie. Forza con i suggerimenti per un regale di benessere. 800 24 0024 è il nostro numero verde. E i messaggi invece al 349 238 6666. Abbiamo Daniele che ci chiama da Firenze. Buongiorno Daniele, benvenuto. Buongiorno a tutti. Volevo sapere una domanda, volevo fare una domanda. Praticamente quanto riguarda la cellulite, se regalare uno step a una ragazza può essere un'offesa oppure può comunque essere utile e se può risolvere il problema. Questo. Daniele, lei è molto carino. Già un uomo che si fa, no, questa domanda merita 1000 punti. Poi è anche di Firenze. Dottor Confalonieri. Beh, utile sicuramente, nel senso che l'esercizio fisico correlato allo step è un esercizio fisico che impegna in modo selettivo le gambe e quindi porta ad un miglioramento per quanto relativo della cellulite. Quindi tutto sommato lo ritengo utile, non credo che sia offensivo. Anzi, lei con che frase la gesto... accompagnerebbe, dottor Confalonieri? Tiri fuori, perché insomma Daniele ha avuto veramente un pensiero molto molto delicato. Tiri fuori un messaggio con cui accompagnare questo regalo. Accompagnarlo dicendo: sei già molto in alto nei miei sentimenti, però con questo gradino arriverai ai massimi livelli. Wow, fantastico. Daniele, allora si può regalare, almeno secondo il dottor Confalonieri. Andiamo a Siracusa, ci chiama Paolo. Paolo, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno e grazie per il servizio che ci offrite. Volevo chiedere a Babbo Natale Confalonieri, io ho pensato di regalarmi o regalarci una row machine, perché è un rematore, sì, una macchina che simula il movimento del canottaggio. Volevo sapere se c'erano delle controindicazioni per chi ha qualche problema con la schiena. Sì. Perché lei ce l'ha, Paolo, o qualcuno che le abita vicino? Che, sì, mia moglie, delle lombalgie che vengono, che sono un po' più... Senta Paolo, ma questo regalo se lo fa più per lei o per sua moglie? Ci dica la verità, guardi che Babbo Natale la sa. Al 99,5% per me, lo 0,5% per la moglie. Va bene, sì. Dottor Confalonieri. Allora, il regalo è molto bello, molto molto bello, nel senso che non ne abbiamo parlato prima, quindi ringraziamo il nostro ascoltatore di Siracusa, perché in effetti il rematore è un attrezzo straordinario per gli effetti che determina, in quanto impegna in modo completo tutta la muscolatura e ci obbliga anche ad un lavoro molto impegnativo sul piano della resistenza e quindi sul piano respiratorio e cardiovascolare. Quindi per il nostro ascoltatore direi che è l'ideale, è anche divertente, anche perché con quasi tutti questi rowing in commercio si possono simulare percorsi, gare, fare i propri record personali sulle varie distanze. E per quanto riguarda la moglie, potrebbe usarlo con attenzione, magari integrando l'utilizzo del rowing con un pochino di ginnastica di tipo posturale che vada a bilanciare quelli che sono gli squilibri che portano a questa dolenzia, a questa lombalgia. Allora, speriamo che sua moglie, dottor Confalonieri, sia all'ascolto, perché abbiamo capito che lei lo desidera questo regalo. Chissà che... Ma non mi dispiacerebbe, vedi? Davvero. Vedi. Allora, invece andiamo a Pordenone. Ci scrive Maria che vorrebbe regalare ai genitori una cyclette, ma teme che resti in un angolo abbandonata, praticamente come la mia. Ecco. Questo è il grande problema quando si fa questo tipo di regali senza consultarsi con chi li riceve. In effetti potrebbe esserci un pochino di entusiasmo iniziale, uno la utilizza 2 o 3 volte e poi l'abbandona. Mentre la cicletta è ideale perché consente di allenarsi senza sovraccarico a livello articolare e soprattutto per chi non ha mai fatto nulla o è in sovrappeso, è probabilmente l'attrezzo più facile da utilizzare. Il mio suggerimento è iniziare facendone pochi minuti ad un livello di intensità molto molto basso e possibilmente collochiamola di fronte alla televisione, perché sembra un suggerimento banale, ma se uno associa la cicletta alla visione del telegiornale piuttosto che della soap opera preferita, diventa quasi automatico, puoi farla quasi tutti i giorni. Se invece non lo fa, diventa più difficile. Mia moglie sta ingrassando troppo e non si piace più. Vorrei regalarle un abbonamento in palestra, ma mi sembra, e dice, di essere anche molto stanca mentalmente. Che fare? Ci scrive Franco. Inizi regalandole un corso di Pilates, che l'aiuta sul piano fisico a stare meglio, che la farà stare sicuramente meglio sul piano psichico, perché anche questo effetto collaterale è importante, e la introduce in questo modo nell'ambiente palestra. Una volta superate le timidezze nei confronti della palestra, potrà eventualmente completare il Pilates con un corso mirato al cardio fitness piuttosto che al dimagramento. Quindi un accompagnamento graduale. Vede che il concetto fisico, di gradualità, il dottor Confalonieri non l'abbandona mai. 824 0024. Andiamo da Simona che ci chiama da Pisa. Meno male, Simona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simona, meno male dico, perché ci hanno chiamato tutti ascoltatori uomini. Sembra che i regali li facciano solo loro, invece ahimè tocca farli anche a noi, Simona. Io veramente vorrei farvene uno per me. Brava, brava, brava. Dunque, non sono pigra abbastanza, ma mi piace camminare, però non fuori. Visto che il dottor Confalonieri ha sconsigliato la pedana, potrebbe invece esprimersi favorevolmente per un tapirulà? Grazie, per Simona. Farmi camminare. Per farla camminare. Dottor Confalonieri, sì. Così rispondiamo anche a Rossana che ci scrive: non cammino mai e vorrei regalarmi un tapirulan. Quale e come cominciare? Dunque, sono sicuramente favorevole al tapirulan. Diciamo che rispetto alla cicletta è un po' più faticoso, è un po' più impegnativo, però consente livelli differenti di intensità e quindi anche un'efficacia maggiore poi in termini di risultati. Un tapirulan casalingo si trova anche valido intorno ai 150-200 euro, che è una cifra elevata ma non elevatissima. Io consiglierei un tapirulan con una regolazione facile delle velocità e soprattutto che preveda anche la possibilità dell'inclinazione, perché introdurre gradualmente il cammino in salita aumenta enormemente gli effetti di questa macchina sul nostro organismo. Quindi sono sicuramente favorevole. Sente, si cammina ma si può anche correre. Si inizia camminando, si può anche correre. Diciamo che la gestione della corsa, soprattutto alle velocità più elevate, per i tapis, con i tapis roulant casalinghi è un po' complessa. Quindi se uno lo volesse acquistare per la casa ma intende allenarsi, intende migliorare le sue performance nella corsa, stare un po' più attento a consigliarlo, perché qui ci vorrebbero invece quei tapis roulant che si trovano nelle palestre, che però hanno dei costi enormemente superiori. E poi credo anche che siano un po' ingombrantini, o no? Sì, quelli casalinghi non sono ingombranti, no, perché sono tutti impacchettabili, esatto. Quindi li chiudiamo in un angolo. Anche lì davanti alla TV, lei suggerisce? Beh, sì, però di solito si fa meno sul tapis roulant, quindi si può anche farlo, cioè, non necessariamente davanti alla TV. E noi vogliamo subito ad Alessandria, ci aspetta Franco. Buongiorno Franco. Buongiorno. Io volevo suggerire come regalo le racchette da neve, o ciaspole, che dir si voglia. Sì. A me li hanno regalati i miei figli qualche Natale fa, io cammino molto, ma è stata una scoperta buona, perché impongono un tipo di movimento faticoso a piacere, sì, però molto lento. Che io lo trovo molto buono, ecco. Grazie Franco, un'ottima idea. Tra l'altro lei ha imparato abbastanza facilmente, vero? Oh, è facilissimo. Ah, quindi... diciamo che io sono abbastanza esperto di sci, eccetera. Poi abito in montagna, quindi è inutile secondo me regalarlo in città. Certo. Però chi ha la possibilità, poi quest'anno c'è tanta neve, anche in alta collina, in collina si va con le ciaspole. Impongono un movimento secondo me molto valido come allenamento. Grazie, grazie mille Franco per questo suggerimento. Sì, dottore, lei non ce l'aveva detto, no, ad esempio. Vede? Abbiamo degli ascoltatori ormai che ci aiutano a fare la trasmissione. Diciamo che dal Piemonte è partito lo slow food, potrebbe partire insieme a Franco anche proprio lo slow training, perché è un'indicazione estremamente interessante questa del movimento lento, che ci consente di graduare l'intensità e soprattutto, essendo lento, ci consente di interagire con l'ambiente e di sovraccaricare poco le articolazioni. Quindi assolutamente favorevole alle ciaspole. Attenzione però, abbiamo parlato venerdì scorso dello sci e dello sci alpinismo e poi abbiamo avuto un weekend ricco di incidenti. Le ciaspole usate con imprudenza, proprio perché siamo nell'ambiente montagna, possono diventare rischiose. Quindi l'unico avvertimento che lancerei è questo: attenti all'ambiente e al tempo. Allora ci arriva un messaggio da Chris che ci scrive: salve, qualche settimana fa mi avete fatto comprare le scarpe da corsa, ora esco per la corsetta quotidiana, diluvia ma è più da eroi, regalo scarpette per Natale. E ci saluta. Grazie. Abbiamo anche un messaggio del nostro amico della poltrona, che ormai noi, devo dire che è una nostra creatura, una sua creatura, perché non è più in poltrona, ma ormai è diventato voga sul voga. Po', forse potremmo regalare a lui un remo ergometro, visto anche la condizione dei fiumi di questi giorni, così dalla poltrona si sposta sul remo ergometro ed evita in queste giornate di uscire sul fiume. Ha dei pensieri molto delicati per il nostro amico della poltrona, potremmo continuare a chiamarlo così o... Fu della poltrona. Ed ora voga. Grazie per averci scritto, perché il dottor Confalonieri, se non trova il suo messaggio, è un po' preoccupato. E andiamo a Bari. Ci chiama Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al dottore, volevamo regalarci a mia moglie una panca di inversione. È un attrezzo piuttosto inconsueto, non noto. Qualcuno ce l'ha consigliato. Ecco, volevo sapere dal dottore eventualmente cosa ne pensa? E come usarlo eventualmente? Senta, ma come vi è venuta questa idea? Mi scusi, Francesco. Un nostro amico comune americano che ci ha consigliato questo tipo di attrezzo. Con quali? Per fare tensione alla schiena. Poi? È un po' di benessere, diciamo così, generale. Ah, ho capito. Grazie Francesco. Allora, dottor Confalonieri, anche Claudio D'Anzio vuole sapere la stessa cosa, perché ci scrive come vediamo, come la vede la panca inversione, soprattutto per le lombalgie croniche, anche dopo intervento. Diciamo che è una panca che obbliga delle posture particolari e queste posture consentono di scaricare in modo specifico e localizzato la colonna. È come se ci facesse fare dello stretching. Sì, esattamente. E, oddio, l'attrezzo di per sé è utile e importante. Non sono tanto favorevole a un utilizzo casalingo di questo attrezzo, nel senso che dovremmo comunque preliminarmente fare una visita specialistica, costruirci un programma su misura e imparare ad utilizzarla in funzione delle caratteristiche in particolare della nostra colonna. Soltanto fatti questi passaggi potremmo anche utilizzarla a casa. Stefania ci chiama da Milano. Buongiorno Stefania. Buongiorno. Cosa regala o cosa vuole regalarsi di bello per il suo benessere? Ecco, vorrei regalarmi e chiedere al dottor Confalonieri se esiste un attrezzo per buttare giù la pancia che mi è rimasta dopo il parto, che però è avvenuto 6 anni fa ormai, un cesareo per la verità, e quindi non riesco più a ritornare a quello che era, insomma, la mia pancia di una volta. Grazie Stefania, esiste una macchina magica? Se esistesse avremmo forse risolto la crisi dei consumi che tanto temiamo per questo Natale. No, purtroppo non esiste, difatti questo è un problema comune a tantissime mamme da più anni, magari anche. Qui l'unica possibilità è ridurre l'apporto calorico e quindi diminuire la percentuale di grasso e ovviamente cercare di tonificare il più possibile l'addome, anche se gli effetti sono davvero minimi, anzi spesso si ha un effetto paradosso, perché si tonifica la muscolatura addominale sottostante e si evidenzia ancora di più questo grasso anche relativamente molle che abbiamo sopra, che però ha anche il suo bello. Ma io non sono assolutamente contrario alla donna un po' rotonda, quindi tutto sommato non la vedo male, ecco. Ecco, questo mi piace, è un po' musica per le nostre orecchie, per tutte le persone che si sentono leggermente morbide e che però si amano tornerà, così giusto. Tornerà anche questo modello estetico. Vero? Sì. E allora a proposito di musica, questo fine settimana il tempo non promette bene, molti di noi rimarranno a casa magari a completare gli addobbi. Allora noi abbiamo pensato che tra un addobbo per finire di mettere le palline all'albero di Natale o al presente, di preparare, alcuni lo fanno ancora, io per primi, i biscotti per Natale, un po' di musica male non fa, anzi che Natale è, che addobbi sono senza musica. In linea con noi abbiamo la nostra dottoressa Sibillo, medico, esperta in musicoterapia. Dottoressa Sibillo, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi, e siamo ormai arrivati veramente al Natale. Natale, l'atmosfera è creata sostanzialmente per me dalla musica in tutte le sue forme, è come assistere ad un grande concerto, via, dove incontriamo note, luci, profumi, colori, e il cui direttore d'orchestra, ricordatevi, è sempre e comunque il nostro cuore. Allora, stiamo preparando l'albero di Natale, abbiamo fatto allenamento sulla la bicicletta, il tapirulan, la pedana, dobbiamo rilassarci un pochettino. Allora fatevi questo regalo, createvi un proprio spazio, un vostro proprio spazio con una luce verde soffusa, perché il verde aumenta la produzione nel nostro cervello di una sostanza, la dopamina, che ci porterà alla calma. Mettete un profumo di lavanda che si diffonda nell'ambiente e una melodia natalizia dal ritmo lento che aiuti a ritrovare un po' se stessi ascoltando le proprie sensazioni ed emozioni. Questo serve anche per le persone che purtroppo si sentono sole o che soffrono di solitudine. È un modo semplice, vi aiuterà a rimuovere dalla mente pensieri negativi, vi toglierà quegli stati di tensione e migliorerà il vostro benessere. E poi una piccola annotazione per chi si allena, visto che abbiamo parlato di regali natalizi sportivi, scegliete anche il sottofondo giusto, vi aiuterà a portare a termine per esempio gli esercizi che vi ha prescritto il vostro medico per il sovrappeso, per i problemi di cuore, sentirete addirittura meno fatiche e avrete piacere di allenarvi. E tutto questo funziona a qualsiasi età, soprattutto con le persone che sono un pochino più in là con gli anni, che spesso appunto devono fare attività fisica per motivi di salute. Dottoressa Sibilla, veramente tanti consigli per il nostro benessere, io la ringrazio, anche il dottor Confalonieri è rimasto affascinato. Sì, e aggiungerei una piccolissima cosa: non abbiamo parlato dei bambini, ai bambini regaliamo musica, attraverso la musica faranno movimento. Dottoressa Sibillo, dottor Confalonieri, anzi Babbo Natale per oggi, grazie per essere stati con noi, e noi ci sentiamo domani per Questa casa non è un albergo a mezzogiorno. Intanto buona giornata da Nicoletta Carbone.